La mia testa è come un cubo di Rubik, provo godimento come fa Kubrick. D'estate mi alleno spalando la neve, a sera indosso un goccio di lime. Risico monopoli, gli scacchi nascondi, non scarabia o tabù. Solo questo cubo tra le mani, gli altri giochi non li gioco più. Risico monopoli, gli scacchi nascondi, non scarabia o tabù. Solo questo cubo tra le mani, gli altri giochi non li gioco più. Ma mette in movimento il mio neurone, sempre alla ricerca di collocazione. Kubanga, sto fantastica realtà. Kubanga, non finirà. Uno, due, tre, stella, la codina, mosca, cerca, fumo, tagada. Solo questo cubo tra le mani, non ho più nessuna attività. Uno, due, tre, stella, la codina, mosca, cerca, fumo, tagada. Solo questo cubo tra le mani, non ho più nessuna attività. Kubanga, sta fantastica realtà. Kubanga, non finirà. Kubanga, sta fantastica realtà. Kubanga.